Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Dracula di Bram Stoker. Traduzione di Rosanna Pelà. Diario del dottor Seward. Il dottor Van Helsing mi ha detto: la logica è semplice. Questa volta non logica di pazzo che salta da ciuffo d'erba in mezzo di nebbia. Se non è vero, allora prova sarà sollievo e al peggio non fa danno. Ma se è vero, è qui cosa tremenda. Eppure cosa tremenda può aiutare mia causa, perché è necessario un po' di credenza. Sentite, ecco cosa che io propongo. Prima, andiamo adesso a vedere quel bambino in ospedale. Il dottor Vincent del North Hospital, dove i giornali dicono che si trova bambino, è amico mio. E io credo anche di voi, perché eravate compagni di studio ad Amsterdam. Lui permetterà che due studiosi vedano caso, anche se non permette a due amici. Noi a lui non diciamo niente, ma solo che vogliamo imparare. E poi? Egli si è tolto una chiave da una tasca e me l'ha mostrata. E poi noi passiamo notte, voi e io, in cimitero dove giace Lucy. Questa è la chiave di sua tomba. L'ho avuta da becchino per dare ad Arthur. Mi sono sentito mancare il cuore perché ho capito che ci aspettava una prova orrenda. Non potevo fare niente. Perciò, raccogliendo tutto il mio coraggio, gli ho detto che dovevamo affrettarci perché il pomeriggio volgeva alla fine. Abbiamo trovato il bambino sveglio. Aveva dormito e mangiato un poco e in complesso stava abbastanza bene. Il dottor Vincent gli ha tolto la benda dalla gola per farci vedere i forellini. Non c'era da sbagliarsi. Erano identici a quelli che Lucy aveva avuto sulla gola, ma più piccoli, con i margini di aspetto più fresco. Ecco tutto. Quando abbiamo chiesto al dottor Vincent a che cosa li attribuisse, ci ha risposto che dovevano essere la morsicatura di qualche animale, forse un ratto. Ma da parte sua il dottore tendeva a pensare che si fosse trattato di uno di quei pipistrelli così numerosi sulle colline settentrionali di Londra. Tra tanti esemplari innocui ve ne potrebbe essere qualcuno proveniente dal sud. Un marinaio potrebbe averne portato in patria uno che fosse riuscito a fuggire. O forse un piccolo può essere scappato dal giardino zoologico, oppure uno che si fosse incrociato con un vampiro. Queste cose capitano, sapete. Una decina di giorni fa era scappato un lupo che è stato poi rintracciato, se non mi sbaglio, da queste parti. Nella settimana successiva i bambini non hanno fatto altro che giocare a cappuccetto rosso nella brughiera e in tutti i sentieri del luogo finché non è saltata fuori la paura della bella signora, e per loro è stata una vera festa. Perfino questo povero scricciolino, quando si è svegliato, ha chiesto all'infermiera se poteva uscire. Alla domanda sul perché volesse andarsene, ha risposto che voleva giocare con la bella signora. «Spero», ha detto Van Helsing, «che quando mandate il bambino a casa voi raccomandate ai genitori di sorvegliare lui da vicino. Queste fantasie di scappare di casa sono enorme pericolo, e se il bambino rimane fuori un'altra notte, questo può essere per lui fatale. Ma io suppongo che voi lo tenete qui ancora qualche giorno, vero?» «Certamente, almeno una settimana e anche di più se la ferita non sarà guarita. La nostra visita all'ospedale è stata più lunga del previsto, e quando ne siamo usciti il sole era già tramontato. Nel vedere che si era fatto buio, Van Helsing ha osservato: non c'è fretta. È più tardi che io credevo. Venite, andiamo a cercare qualche posto dove possiamo mangiare. Poi andremo per la nostra strada. D'un tratto, nel volgermi, mi è parso di intravedere qualcosa di bianco muoversi in mezzo a due scuri tassi, dalla parte del cimitero più distante della tomba. Nello stesso tempo una massa scura si è staccata dal punto del camposanto scelto dal professore e si è fatta avanti. Allora mi sono mosso anch'io, ma dovevo girare intorno a lapidi e a sepolcri recintati e incespicavo fra le tombe. Il cielo era nuvoloso e da qualche parte in lontananza è giunto il canto precoce di un gallo. A poca distanza, dietro una fila di ginepri che fiancheggiavano il sentiero diretto alla chiesa. Una bianca figura indistinta è passata velocemente, andando verso la tomba. Ma la tomba stessa è scellata tra gli alberi. Non sono riuscito a vedere dove fosse scomparsa. Nel sentire il fruscio di un movimento reale venire dal punto in cui poco prima avevo visto la figura bianca, mi sono avvicinato e ho trovato il professore con in braccio un bambino piccolo. Nel vedermi l'ho atteso verso di me dicendo: «Siete persuaso? Adesso?» «No!» ho risposto con un tono che io stesso sentivo aggressivo. «Non vedete voi il bambino?» «Sì, lo vedo che è un bambino, ma chi l'ha portato qui?» «Ed è ferito?» ho chiesto. «Vedremo», ha detto il professore. E tutti e due, seguendo lo stesso impulso, siamo usciti dal cimitero, lui portando il bambino addormentato. Poco dopo siamo entrati in un folto di alberi e, acceso un fiammifero, abbiamo esaminato la gola del bambino. Non c'erano graffi né segni di sorta. «Dunque avevo ragione», ho fatto io in tono di trionfo. «Siamo arrivati appena in tempo», ha detto il professore sollevato. «Dovevamo decidere che cosa fare del bambino e ci siamo consultati in merito. Se l'avessimo portato a una stazione di polizia, avremmo dovuto rendere conto dei nostri movimenti nel corso della notte, o quantomeno fornire qualche spiegazione su come e dove avessimo trovato il piccolo». Così abbiamo finito per decidere di portarlo nella brughiera e quando avessimo sentito un poliziotto avvicinarsi avremmo lasciato il bambino in un punto dove gli sarebbe stato impossibile non trovarlo e poi ci saremmo avviati a casa al più presto possibile. Tutto è andato bene. Nota lasciata da Van Helsing nel suo baule al Berkeley Hotel, indirizzata al dottor John Seward. Non consegnata. 27 settembre. Amico John, scrivo questo in caso che capita qualche cosa. Vado da solo a sorvegliare in quel cimitero. È mio comodo che la non morta, signorina Lucy, non esce questa notte, così che domani notte può essere più vogliosa. Così io metto cose che a lei non piace. Aglio e un crocifisso. E sigillo in questo modo la porta di sua tomba. Essa è giovane come non morta, e dunque avrà prudenza. In più, queste cose sono solo per impedire lei di uscire. Ma possono non bastare se lei vuole andare dentro. Perché allora il non morto è disperato e deve trovare un punto di minore resistenza. Io poi sono lì tutta notte, da tramonto fino dopo alba, e se c'è qualche cosa che può essere imparata, io essa imparo. Di signorina Lucy o di parte sua io non ho timore, ma l'altro, che per causa sua essa è non morta, adesso ha il potere di cercare sua tomba e lì trovare rifugio. Esso è astuto, come io so dal signor Jonathan e dal modo come l'ha ingannato noi quando giocava per vita di signorina Lucy. E noi abbiamo perduto. E i non morti sono potenti, in tanti modi. Lui ha sempre in sue mani la forza di 20 uomini. E adesso che noi abbiamo dato a signorina Lucy nostra forza, anche questa è sua. Inoltre, lui può chiamare suo lupo o altro che io non so. Allora, se capita che lui viene in cimitero questa notte, lui trova me. Ma nessun altro mi trova, se non troppo tardi. Non c'è motivo che lui viene. Il suo terreno di caccia è più ricco di selvaggina che questo cimitero, dove dorme la donna non morta e vigila solo un vecchio. Ecco perché Io scrivo questo nel caso. Prendete i documenti che sono con questa nota, i diari di Harker e il resto. Leggete tutto e poi trovate questo grande e non morto. Tagliate sua testa e bruciate suo cuore o piantate in esso un piolo, così che il mondo è liberato di lui. Se così deve essere, addio, Van Helsing. Diario del dottor Seward, 28 settembre. È meraviglioso quello che può fare una buona nottata di sonno. Ieri ero quasi disposto ad accettare le idee mostruose di Van Helsing, ma ora mi sembrano orride e le vedo come un oltraggio al buon senso. Egli è convinto di esse, non ne dubito, e mi domando se la sua mente non sia in certo qual modo sconvolta. Ci deve essere di sicuro una spiegazione razionale di tutte queste cose misteriose. È possibile che sia stato il professore stesso a fare tutto? È dotato di un'intelligenza talmente eccezionale che, se fosse uscito di senno, sarebbe capace di raggiungere i suoi scopi basati su qualche idea fissa in un modo meraviglioso. Sono restio a pensarlo. E certo scoprire che Van Helsing è pazzo sarebbe una cosa ancora più sbalorditiva delle altre. In ogni modo, lo sorveglierò attentamente. Potrei così gettare qualche luce sul mistero. 29 settembre, mattina. La notte scorsa, poco prima delle 10, Arthur e Quincy si sono presentati nella stanza di Van Helsing. Egli ci ha spiegato tutto quello che voleva facessimo, ma rivolgendosi in modo particolare ad Arthur, come se tutte le nostre volontà dovessero imperniarsi sulla sua. Ha cominciato esprimendo la speranza che andassimo tutti con lui, perché, ha detto, c'è un serio dovere da compiere. Senza dubbio la mia lettera ha stupito voi. Quest'ultima domanda era diretta senza equivoco a Lord Godalming. Sì, e mi ha anche turbato per un certo tempo. In quest'ultimo periodo la mia casa è stata colpita da tante sofferenze che vorrei evitarne altre, ma nello stesso tempo ero incuriosito da quello che intendevate dire. Quincy e io ne abbiamo parlato a lungo, ma più parlavamo, più ci sentivamo perplessi. E ora posso dirvi di persona che sono completamente in alto mare per quanto concerne il significato di queste cose. E io pure, ha detto Quincy laconico. Oh, ha osservato il professore. Allora voi siete più vicini al principio, tutti e due, di amico John qui presente, che deve fare tanta strada indietro prima di arrivare al punto che può incominciare. Evidentemente aveva capito senza che io dicessi una parola che io ero ritornato sulla mia vecchia posizione di dubbio. Poi si è rivolto agli altri due e ha detto con un'intonazione di profonda gravità: «Io voglio vostro permesso di fare quello che credo bene fare questa notte. Io so che è chiedere molto, e solo quando voi sapete che cosa io propongo di fare capirete solo allora quanto è molto. Dunque, posso domandare a voi di fare vostra promessa al buio, in modo che dopo, anche se siete arrabbiati con me per un certo tempo, e io non devo nascondere a me che questo può capitare, voi non avete da rimproverare a voi stessi niente. Questo è parlar chiaro comunque», è intervenuto Quincy. «Io mi fido del professore. Non capisco bene dove voglia arrivare, ma sulla sua onestà posso giurare, e questo a me basta». «Grazie, signore», ha detto Van Helsing con fierezza. «Io ho fatto a me l'onore di contare su voi come amico fidato, e vostro sostegno a me è un po' caro». E ha teso la mano a Quincy, che gliela stretta. Poi ha parlato Arthur. «Dottor Van Helsing, a me non piace comperare un maiale nel sacco, come dicono gli scozzesi, e se si trattasse di qualcosa che concerne il mio onore di gentiluomo, o la mia fede cristiana, io non potrei farvi questa promessa. Ma se voi mi garantite che quanto avete intenzione di fare non è in contrasto con questi due principi, vi do subito il mio assenso, sebbene io non capisca affatto, parola mia, a che cosa tendiate. Io accetto vostra limitazione, ha dichiarato Van Helsing. E tutto che a voi chiedo è che se sentite necessità di biasimare una qualunque mia azione, prima considerate bene essa e vi assicurate che non contrasta vostre riserve. D'accordo, ha detto Arthur. Questo è corretto. E ora, terminati i pourparlers, posso domandarvi che cosa dobbiamo fare? Voglio che venite con me e in segretezza in cimitero di Kingstead. Il viso di Arthur si è fatto teso mentre diceva sbalordito: «Dove è sepolta la povera Lucy?» Il professore ha fatto un cenno di assenso e Arthur: «Ma quando saremo lì?» «Entriamo in tomba!» Arthur è balzato in piedi. «Professore, parlate sul serio o si tratta di un mostruoso scherzo? Scusatemi, io vedo che parlate sul serio!» Si è seduto di nuovo, ma io ho notato che si teneva rigido e distante, come un uomo chiuso nella sua dignità. Dopo un silenzio, Arthur ha proseguito nelle domande. «E quando saremo nella cripta?» «Apriamo la bara.» «Ma questo è troppo», ha esclamato alzandosi di nuovo, pieno di collera. «Sono disposto alla pazienza finché restiamo nei limiti del ragionevole, ma questo... questa profanazione della tomba, di una che...» Ed era quasi soffocato dall'indignazione. Il professore lo ha guardato compassionevole. «Se io potrei risparmiare a voi una sofferenza, mio povero amico», ha detto, «Dio sa che lo faccio, ma questa notte i vostri piedi devono camminare in sentieri di spine, o in seguito, e per sempre, piedi che voi amate devono camminare in sentieri di fiamma». Pallido in viso, Arthur lo ha guardato con risolutezza dicendo: «Badate a ciò che dite, signore!» «Non sarebbe meglio ascoltare quello che ho da dire?» ha proposto Van Helsing. «Così dopo voi conoscete i limiti di mio proposito. Posso io continuare?» «Questo è giusto», è intervenuto Morris. Dopo una pausa, Van Helsing ha proseguito con un evidente sforzo: «La signorina Lucy è morta, non è vero?» «Sì, dunque a lei non può venire danno.» «Ma se non è morta?» Arthur è balzato in piedi. «Buon Dio!» ha gridato. Che cosa volete dire? C'è stato un errore? È stata sepolta viva?» E gemeva di un'angoscia che nemmeno la speranza avrebbe potuto alleviare. «Non ho detto che essa era viva, figliolo mio, e io non ho pensato questo. Non vado più in là di dire che cosa può essere non morta.» «Non morta, non viva, ma che cosa intendete dire? Che cos'è questo? Un incubo?» «C'è misteri che gli uomini possono solo immaginare e col passare di epoche possono risolvere solo una parte di essi. Credetemi, noi adesso ci troviamo vicini a uno di essi, ma io non ho fatto. Posso io tagliare la testa a salma di signorina Lucy?» «Cielo e terra! No!» ha urlato Arthur in preda a una tempesta di furia. «Per nulla al mondo io consentirei a una mutilazione del corpo della mia cara. Dottor Van Helsing, voi state esagerando con me. Che cosa vi ha fatto perché mi dobbiate torturare così? E che cosa vi ha fatto quella povera dolce fanciulla perché vogliate sconciare in tal guisa la sua tomba? Siete pazzo a dire queste cose o sono pazzo io ad ascoltarle? Non osate più neppure pensare a una tale profanazione. Io non darò il mio consenso a nessuna delle cose che voi fate. Io ho il dovere di proteggere la sua sepoltura dagli oltraggi e per Dio lo farò.» Van Helsing si è alzato dal posto dove era stato seduto tutto il tempo e ha dichiarato con voce grave e secca: Lord Goldhelming, anch'io ho un dovere da compiere. Un dovere verso altri, un dovere verso voi, un dovere verso la morta e per Dio. Io compirò esso. Tutto che chiedo adesso a voi è che venite con me, che guardate e ascoltate. E se in seguito io faccio a voi la stessa richiesta e voi non siete ancora più ansioso di me che essa si compie, allora io farò mio dovere qualunque che sembra a me. E poi, se vostra signoria vuole questo, io sarò disposto a dare voi soddisfazione quando e dove volete. A questo punto la sua voce si è incrinata lievemente ed egli ha continuato in tono pieno di compassione. Ma io voi prego di non essere più irritato con me. In una lunga vita di azioni che spesso non era piacevole di fare e qualche volta a me strappavano il cuore, mai ho avuto compito così terribile come questo. Credetemi che se viene il momento che voi cambiate idea su di me, basterà un solo sguardo di voi per cancellare questa così triste ora, perché io farei tutto quello che un uomo può fare per risparmiare a voi sofferenza. Pensate un poco, perché io dovrei dare a me stesso tante fatiche e dolori? Io sono venuto qui da mio paese per fare quello che posso di buono, e prima ragione per fare contento amico mio John, e poi per aiutare una cara signorina che anche io ho finito con amare, per lei. Ho vergogna di dire così tanto, ma lo dico in gentilezza. Ho dato lo stesso che avete dato voi. Il sangue di mie vene. A lei ho dato mie notti e miei giorni, prima di sua morte, dopo sua morte. E se mia morte può fare bene a lei anche adesso, quando lei è la morta non morta, io la offro a lei spontaneamente. Tutto questo è stato detto con una fierezza molto dolce e molto grave insieme, e Arthur ne è rimasto assai colpito. Ha preso la mano del vecchio e gli ha detto con voce incrinata: è terribile pensare a queste cose, e io non riesco a capire, ma verrò almeno con voi e starò in attesa.